Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Dobbiamo tutti essere tranquilli, sereni, volerci bene, apprezzare, capire e comprendere il nostro prossimo, soprattutto incontrare l'altro. Però qualche volta ci girano le palle e sbrocchiamo, no Sansone? Si sbrocca. Nel cinema italiano si è sbroccato spesso e volentieri, da Totò, archivista capo che fa l'esame di licenza media con Sordi, compagnuccio della parrocchietta, gli mangia la testa perché viene bocciato da Sordi, che usa il suo piccolo potere da sagrestia, a Verdone che sbrocca perché viene a votare in Italia e gli depredano l'Alfa Sud con i divanetti in pelo di cammello e gli svuotano di tutto, gli tolgono le borche, lui arriva e deve votare per un paese che lo ha ripagato così ed essere nato in Germania. Insomma, quindi lo sbrocco male. È la classica goccia che fa traboccare un vaso di insopportabilità latente, sedimentata. E anche l'uomo più tranquillo, l'uomo più civile, più ben educato, improvvisamente ha degli eccessi. Oggi vorremmo riproporvi una nostra antica puntata in cui analizzammo lo sbrocco come cifra di ispirazione poetica per il nostro cinema, ma allo stesso tempo ci siamo fatti raccontare dagli ascoltatori quelli che sono stati gli sbrocchi della loro vita. Nella nostra vita ricordiamo sempre che a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più. Di solito noi sbrocchiamo con le persone care, con gli amici, con i familiari, usciamo da noi stessi e guardiamo voluttuosamente questa bestia che covava latente, silenziosa dentro di noi, finalmente liberamente dedita all'annientamento di chi uccide in quel momento la nostra felicità. Finito? Basta così? Mandiamo la replica? Mandiamo la replica. Vabbè, mandiamo la replica. Non vi impressionate osservando il piccolo video appena pubblicato su YouTube che riguarda Giuseppe Sansonna e me. Simulai uno sbroccamento, finsi di irritarmi per il suo insistente e continuo domandarmi una bottiglietta di acqua minerale. Sansonna viene qui da anni tutte le mattine. Esistono fantastici rubinetti, esistono sorgenti nei nostri bagni di acqua. Mi dice: mi presti una bottiglia d'acqua minerale? E non me la ridà mai. Io questa mattina ho sbroccato. Questo sbroccamento mi permette di osservare nella sua ripresa video, immediata pubblicazione, alcuni sintomi dello sbroccamento. A me non piace quando sbrocco, lo faccio raramente, l'ho fatto poche volte nella vita e quelle volte, devo dire, chi ha assistito se lo ricorda. Soprattutto ho sbroccato in presenza di amici o di persone che ritengo care o ritenevo care, o al momento dello sbroccamento ebbi l'illuminata rivelazione che le persone che per me erano care in realtà si stessero approfittando di me. E quando sbrocco improvvisamente alzo il tono della voce, la mia voce diventa acuta. Le parole escono senza che io le freni, mi si gonfiano le vene del collo, dico delle cose terribili, orribili, di una cattiveria unica. Il mio sboccamento dura al massimo dai 45 secondi al minuto e 20, poi basta, tutto torna come prima, almeno per me. Ma quello che è accaduto nel frattempo ha aperto una crepa spazio-temporale nella relazione che avevo con la persona con cui ho sboccato, e quindi cementa una indissolubile e immarcescibile amicizia, amore che durerà per tutta la vita, o naturalmente quella persona comincerà a studiare sistemi per farmi morire lentamente attraverso indicibili sofferenze. A voi capita di sbroccare? Quante volte avete sbroccato? Ricordate i vostri sbroccamenti. Non voglio sbroccatori compulsivi, non voglio la persona che sbrocca 5 volte al minuto con chiunque o con qualunque altra persona. Vorrei che mi raccontaste gli epici sbroccamenti della vostra vita, le volte in cui avete perso il controllo di voi stessi e quella sequenza rapidissima di istanti era come se voi osservaste un'altra persona in un momento di ira funesta, epica, che non ha nulla a che fare con la vostra connotazione anagrafica, con il vostro essere animale sociale. Vi siete mai visti sbroccare veramente? 800240024. E io volevo soltanto una cosa, c'è da. Io non ero in Germania, c'è da un buccio di cui vi si può. Va bene, ho trovato. Ah, io c'è da. E parte di cimbane, quello scuola. È rimasto un prendere, c'è delle cose, alla radio qui cassette, pietra, a fede, tavo. A io riprendere le cose, a riprendere il giorno, a riuscire tutte quante quante cose, c'è delle cose, tutte quante, e bordo, ho finito pure qui, tavo. A io riprendere la macchina, c'è tutte quante quante cose, e c'è delle cose, tutte quante cose, tutte quante cose, no. A io riprendere le cose, tutte quante quante lancia di pacca, pacchetto di un supermarket, per niente, per dire che c'è tutte quante cose, c'è tutte. A riprendere il giorno, io riprendere le pietre, a riprendere le cose, io prendevo, usa di randello, eccetera, vabbè, un parabrezza, io riprendere che detergio che sta, io non lo parla lì. A poi siamo io, che io già ti puggiamo a fare, io non dicevo, non parla disgraziata, che non volevo dire niente, no. Allora ci potevo dire, ci sono tutti, no, io ci sono tutto, eccetera. Allora, siccome lui non me lo può dire niente, eccetera, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andava a piare tutte quante anche al culo, va bene, arrivederci. Iniziamo a ricordarvi alcuni fantastici sbroccamenti, momento di perdita totale del controllo, improvvisa eruzione di una sorta di demone che fa sì che noi diventiamo un'altra persona, o perlomeno quell'altra persona che alberga muta e silente dentro di noi per tutta la vita, in alcuni episodi, in alcune circostanze, si scatena ed esce allo scoperto. Giuseppe Sansonna è l'archivista degli sbroccamenti storicamente raccontati dal cinema. Questo, vediamo di classificarli, che tipo di sbroccamento era, come lo classifichiamo? Questo è Pasquale Ametrano, che con il suo linguaggio franto e sincopato, La di Pietro, dopo aver attraversato tutto il film Bianco, Rosso e Verdone, sbrocca per l'appunto, perché il suo ritorno nostalgico in Italia, lui è attirato dai baffoni di Causio, dalla musica di Claudio Villa, questa era la sua visione dell'Italia dopo una vita a Monaco di Baviera con questa moglie teutonica che gli cucina questi würstel al mattino come colazione, torna in Italia felice per votare, per ritrovare la sua amata, il suo amato paese, una sorta di Harpo Marx panzuto con la canottiera rovesciata sull'enorme ventre tirata, e subisce una serie di furti, di angherie, fino a che la sua Alfa Sud, rosso passata di pomodoro con la pelliccia sintetica, viene completamente disossata dai ripetuti furti, e quindi nel momento in cui arriva a votare finalmente parla, e la sua invettiva appunto è un insulto all'Italia che l'ha così maltrattato. Ecco, se vogliamo cominciare a analizzare alcuni sintomi per aiutare i nostri ascoltatori a fornirci la loro testimonianza, potremmo dire che una delle circostanze dello sbroccamento è quella che riemerge la lingua dei padri, riemerge l'aspetto dialettale represso. Lo sbroccato di solito dimentica quel freno inibitorio, quella sorta di tenuta etica e di circostanza che fa sì che parli una lingua comprensibile a tutti, e parla come parlava suo nonno, il suo bisnonno, il suo antenato contadino. Improvvisamente sembra che vada a richiamare dalle viscere della terra e della propria genealogia quanto di più arcaico e lontano ci sia. Perché? Perché lo sbroccamento è un momento di irruzione della follia, è una sacra uscita dal tempo della contenzione. 800240024. Raccontate come sia facile per voi sbroccare, o come sia difficile, e quale sia il doloroso cammino del rientro nella norma dopo aver sbroccato. Che Dio vi stramaledica, ma perché vi frequento io? Privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti. Non se ne può più, di te, e anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste. Però, poverino, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto, egli, lui, questo inesorabile, fatemelo dire perché sennò schiatto, questo implacabile stronzo. Ma di chi parla? Di me! Non vi voglio più vedere, non vi voglio più sentire, voi siete il mio specchio! Mentre il primo sbroccamento era generalizzato verso un humus ambientale, verso un genius loci, verso qualcosa che si riconosceva appartenente alla propria stirpe, allo stesso tempo si era rinnegato, l'emigrato che se n'era allontanato, era come se con la sua Alfa Sud, con il volante di, con lo sterzo di peluche, si fosse affrancato da quel popolo che poi gliela spolpava, ritorna alle origini e si ribella: non sono questo, non voglio essere questo. Questo è un altro tipo di sbroccamento, ma sempre autocentrato, sbrocca contro se stesso. E sbrocca cosa? Nella terrazza sbrocca contro i colleghi, contro le convenzioni, contro l'ipocrisia, contro quel tutto affogare una sorta di mielosa e affabile frequentazione che in realtà nascondeva un odio implacabile, spietato. È uno dei ritratti più perfetti di quel momento di passaggio fratale fra gli anni 70 e gli anni 80, in cui la competitività, il sorriso, l'aziendalismo, il successo cominciava a essere l'alternativa alla P38, agli anni di piombo, che erano l'alternativa a loro volta a una smodata idea di una possibilità di uscire da una crisi come quella del post-guerra attraverso la felicità del costruire case. Qui Gassman è un politico comunista che appunto ha fatto la resistenza e vede come orrenda l'alba degli anni Ottanta, che lo sta cancellando dalla storia. Quindi però è anche il più lucido, è anche quello che nota che soprattutto vorrebbe concedersi alla propria felicità individuale, a un nuovo innamoramento. E intorno a sé vede dei cadaveroni che sono i produttori, che sono i dirigenti RAI, che sono tutto un sistema che sta marcendo di fatto, che perde anche presa dalla realtà e continuano a vedersi ritualmente come un rito da zombie su questa terrazza. Quindi questo è l'origine storica di questo sbroccamento di Gassman. Diciamo che anche terapeutico lo sbroccamento, colui che sbrocca è una sorta di entrata nel recinto sacro in cui tutto è permesso, in cui può farlo. Colui che non sbrocca esploderà in qualche maniera nella vita, esploderà fisicamente, gli verrà un infarto, morirà di ulcera, devastanti tumori interni. Invece lo sbroccato alla fine si libera, si sbrocca, però colui che sbrocca comincia a essere seguito dallo sguardo compassionevole di coloro che contengono lo sbroccamento, comincia a dire matto, esaurito, ha qualche problema. Sara, buongiorno Sara. Sì, buongiorno. Chiuda la radio però, gentilmente. L'ho spenta. Io volevo raccontarvi una mia sbroccata che è accaduto alla mia maturità, quindi al quinto anno superiore, e per 5 anni ho avuto una compagna di scuola. La mia era una scuola privata cattolica abbastanza elitaria, e avevo una compagna di scuola la cui mamma in realtà invece era una bidella, che però per diciamo così cortesia della scuola frequentava la nostra classe. E credo che la mamma pulisse anche la nostra scuola. Io ho cercato di essere molto amica di questa ragazza, che proprio con me era in difficoltà, perché comunque avevo una famiglia bella, mio padre era ed è un bellissimo uomo, un dirigente d'azienda, con sempre bei vestiti e quant'altro. Io per non farla sentire in difficoltà, perché invece lei peraltro il padre non lo aveva, cercavo sempre di metterla a suo agio, di darle le mie cose, di aiutarla quando andava male, e lei puntualmente le passava i suoi abitucci smessi, Elisi, per un gesto di cristiana gentilezza. No, però se lei mi diceva, non so, mi guardava un vestito, io facevo, guarda che se ti piace lo puoi, puoi toccarlo, puoi anche metterlo. No, se vuoi te lo do, se devi andare ad una festa, certo, mi fa piacere, te lo presto. Oppure basta che non lo sporchi magari, ecco, perché si sa No, basta che non, essendo di umile famiglia poteva lasciare tracce indelebili, bisogna stare attenti che non glielo sporcasse però. No, assolutamente no. Era in pulita. Realtà, guardi, io veramente non consideravo proprio tutti quegli aspetti che evidentemente mettevano in difficoltà lei. Certo, poverina, ma se puzzava mica era colpa sua. Per quanto mi riguardava, proprio non volevo che lei si sentisse così. E quindi? E quindi nella mia scuola c'erano poi delle regole abbastanza rigide, per cui chi aiutava prendeva l'insufficienza, perché non si doveva aiutare l'altro, perché certo. Cioè, c'era un certo rigore, un certo agonismo. È una giusta scuola di egoismo e di... E praticamente io quando l'aiutavo lei faceva, Sara mi sta aiutando, e mi faceva mettere due, cioè faceva capire queste cose. Poi io sapevo... cioè denunciava il fatto che lei aveva un momento di cedimento, sì. Sì, e poi io sapevo dalle altre mie amiche... che lei parlava tantissimo male dietro di me, insomma, nonostante la sua generosità che le faceva indossare i suoi abiti. Tra tutte le altre, certo, ero quella che perlomeno le dava un minimo un di tozzo grido di pane. E quindi alla fine che per 5 anni lei ha sopportato questa ingrata morta di fame che sì, si approfittava di lei. Poverina, no, mica colpa sua, però lo era. Insomma, al quinto anno noi facciamo una tesi interdisciplinare in storia nel linguaggio dei personaggi storici, io scelsi Mussolini e lo fece anche lei. Oh, guarda caso, non l'avrei mai detto. Pensavo Don Bosco, non lo so. No, Madame Curie. Ma io ero considerata un po' un Teresa diavolo di Calcutta. No, io ero considerata un diavolo nella mia scuola. Vabbè, e quindi però me lo lasciarono fare. Anche in quell'occasione lei fece del tutto per prendere dalla biblioteca le notizie che avevo già assunto io. Perché anche la disgraziata faceva il duce. Anche lei, esatto, cioè, perché lei era in piena concorrenza. Era una provocazione aperta. Esatto, continua. E lei, fine, e lei facciamo... venne a scuola con una boccettina di olio di ricino, naturalmente. Beh, no. No. Era una curiosità storica, non certamente perché fossi da quella parte. Ah. E quindi a questo punto, niente, facciamo la maturità, io prendo un voto più alto di lei e sento che lei dice, e ti pareva, lei è la figlia di papà, è qui, è lì. Che vergogna, questa sorta di terribile e demagogico senso di invidia della ricchezza, è veramente detestabile. E quindi come l'ha punita? E quindi io lì non ci ho visto più. Certo. E io lì le ho detto tutto quello che per 5 anni non le ho detto. Ecco, vediamo se riesce a riassumerlo. Le ho detto le cose più brutte, ad esempio, ancora me lo ricordo, adesso ho 42 anni. Dica. Gli ho detto sei una morta di fame. Non ti sei affilata neanche tuo padre che ha mollato tua madre. Ha mollato tua madre, con la zoccola. Sì. Esatto. Rimasta incinta, ingravidata da tuo padre. Sì, esatto. Avanzo di galera. Esatto. Poi? Cioè, gli ho detto, fai schifo, no? Va in una sorta di sincope respiratoria. Fai fisicamente schifo, non gliel'ha detto? No, perché non era quello il suo problema, perché invece era carina. Il suo più bella era di lei, naturalmente, dietro, è chiaro. Più bella di me. Lo so, Ma no, guardi che anche era, le sorellastre... Non era più bella di me. Non a caso le sorellastre di Cenerentola la tengono chiusa nel focolare a pulire per terra, perché è molto più gnocca di loro, che sono cozze, anche se ricche. Questo, ahimè, è il problema. Vabbè, questo sboccamento... Però io non sono una cozza, questo va detto. Forse ero più carina di lei, però lei era molto carina altrettanto. Questo voglio lei, pur vestita di straccia, era bella. Lei, nonostante i suoi abiti di lusso, non riusciva a ottenere lo stesso apprezzamento. Forse era questo il problema. No, io ero più carina di lei. Vabbè, abbiamo capito, lei ha sbroccato e finalmente ha rimesso al suo posto questa cozza brutta, puzzolente, disgraziata, figlia di buona donna e senza nemmeno un padre certo. E questo, naturalmente, ci apre il cuore in questa fantastica mattina. Non so cosa ne pensa lei, io andrei avanti. No, ecco, qui entriamo nel merito, però, sì, se mi permette, che non vorrei neanche che lei, no, dottor Costanzo, se prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Quale gioco? Oddio, che fa? Non vorrei che in qualche misura, no, in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto che appartiene a certe conventicole. Oddio, a certe consorterie. Perché fa così? Anche in televisione questo è un discorso che mi ha fatto. Perché sembra che soltanto si appartiene a una parrocchia, all'altra parrocchia. Mamma mia, ma che stai parlando come scrittore, ma come cittadino. Oddio, si sente male. E questa è la cosa che andava a dire. Lei ha detto, ma le ha dette o non le ha dette? Le ha dette le cose o no? Questo, Beppe, è lo sbroccamento dello sfigato, che poverino, ogni tanto anche a lui tocca sbroccare, ma lo sbroccamento dello sfigato di solito gli è fatale. Lo sbroccamento della signora che ha chiamato prima, ad esempio, è uno sbroccamento che le fa venire una bella pelle, le rilassa i lineamenti. Le signore tipo quella si spalmano di sbroccamento per essere più belle. Sì, lì emerge la natura pelosa della generosità precedente, che finalmente poi con un'emersione di verità dello sbrocco si trova la sua quadratura. Qui invece Castellitto è lo scrittore dilettante con l'opus magnum nel cassetto, con la grande opera che arriva nel tempio del potere di Costanzo e cerca di mostrarsi. Costanzo lo liquida rapidamente e lui quindi sbrocca contro le conventicole, contro il sistema di potere che gli impedisce l'emersione della sua arte. Franco, buongiorno. Abbassi la radio, se no mi fa sbroccare veramente. Franco? Sì, sì, sono io. Forza. Sì. Volevo raccontarle uno sboccamento che mi è successo nel lontano 1989 in Romania. Se la prese con i rumeni, perché? Perché, allora le spiego, si immagini la situazione, cioè io ero stanco, stanchissimo, perché avevo fatto già 500, penso, meno chilometri in macchina. Era tardi, era notte e ero con un mio amico, siamo andati in un hotel. E che andavate a fare in Romania negli anni 80? Io ero giovane a quell'epoca, negli anni 89. Erano dei viaggi, immagino, con una valigiata di penne birro, di collane, di profumi da quattro soldi. Più o meno ci ha azzeccato tutto. Ma guardi, ho vissuto non a caso. Quindi andavate voi a procurarvi intime d'azioni in cambio di paccottaglia da supermercato. Vabbè, ma più o meno era così, però non avevamo forse tenuto in considerazione il fatto che nell'89, non so se lei ricorda, sì, c'era la rivoluzione. Certo. Quindi la situazione era degenerata nella maniera più assoluta. Certo. E non avevano nemmeno colpa loro di questa situazione. No, però che... noi sì, eravamo giovani e non ce ne rendiamo conto. Quindi andate nell'albergo con il vostro valigione di materiale. Era già tardi notte, abbiamo dovuto beccare quell'albergo che c'era. Cioè c'era, eravate soli voi due, non avevate ancora, eravamo, diciamo. Era la prima sera che arrivavamo. Quindi per questo eravate un po' in tensione. Ecco, arriviamo lì e questo signore, insomma, ci chiede, il padrone d'albergo ci chiede subito $100, che nell'89 erano soldi, poi noi non è che ne avessimo tanti, avevamo 20 anni. E $100, dice, vabbè, piuttosto che dormire in macchina, senza stanche paghiamo questi $100. Ma con coperta annessa, scusi l'indiscrezione. Niente. Era già tardi, eravamo stanchissimi, eravamo stravolti, c'era proprio la prima sera, non c'era nessuna coperta, ma aspetti che spiego. No, vabbè. Allora noi andiamo in stanza, già disperati, $100, e vediamo che c'era le tapparelle che non si alzavano, il cesso intasato, sì, ma soprattutto non si accendeva la luce. Non potevamo neanche disfare una mezza valigia perché è completamente al buio, insomma. E quindi? Io sono sceso, vado dal padrone dell'hotel e dico, ma insomma, ci può pagare $100? Ma in che lingua? Italiano, inglese, rumeno? Ma no, questo signore parlava l'italiano, probabilmente era già abituato. Beh, cioè, era sulla via della transumanza degli assatanati. Sì, comunque lo capivo, adesso non mi ricordo bene se lo parlava bene o male, ma comunque non ho avuto difficoltà a farmi capire. E quindi? E lui, niente, mi dice, guardi, qui è così, la situazione è questa, lei deve pagarsi i suoi $100 e tacere. E io mi ero già rassegnato, disperato. Faccio per salire nella mia stanza, chiamo l'ascensore, arrivo all'ascensore, nel momento che entro in ascensore arriva lì sempre il solito padrone dell'hotel e mi dice, no, guardi che lei ogni volta che prende l'ascensore deve pagare $1. E lì sono sbroccato. Sono andato fuori di testa, ho cominciato a insultarlo, mi ricordo addirittura che gli ho sputato in faccia. E ho fatto un po' la scena del pazzo perché ero andato fuori di testa, perché non riuscivo più, dopo $100, e ancora ogni volta che prendo il gestore $1, dico, qui sono arrivato all'inferno. E com'è finita la storia? È finita che lui ha chiamato la polizia, La polizia è arrivata, mi ha ammanettato appena mi ha visto. Ah, vi ha messo proprio i ferri, sì. Sì, mi ha ammanettato, io ho avuto un po' di panico nel momento, intanto mi ero già anche calmato, perché poi quando mi è stato in Romania... Quando uno gli metto le manette si deve calmare per mi forza. Mi hanno fotografato, mi ricordo, anche che mi hanno fotografato subito, e io a quel punto lì ho tentato l'ultima carta, ho detto, sentite, se date ragione a me, torto a lui, vi do $100. E questi hanno detto sì, va bene, ok, hanno preso il tipo dell'albergo e se lo sono portati via. Beh, mi sembra un epilogo fantastico, sembra un racconto da libro cuore, non poteva finire meglio. C'è un lieto fine anche nelle peggiori favole. Melog. La realtà condivisa. Come fa a parlare? Sono con le mani, sa ragionare, il compagno. E quanto la usate sta parola, quanto la fa? La minoranza rumorosa, ecco che si litigate con me, se mai aspettate soltanto di andare alla banchetta, questa è la verità. Ogni ventennio deve avere la sua rivoluzione. E poi da ci guarda la gica avete fatto, niente avete fatto. Ma se avete fatto più tanto voi della grande. Cecca, Nicola Farù. Beh, cecca quello che sei. Non a caso fai parte della mafia riformista. E riformo io a te, sa. Io mica c'è stanza. Con me sei capitato male. Davvero. Molto male. Sta sempre in cattedra, sta. Come tutti i falliti. No, Antonio, dai, no. Non sa, già. 800240024, stavo dicendo prima agli ingegneri Intonti che il titolo di questa missione dovrebbe essere La bontà che è in noi. E poi le due telefonate sono state esemplificative di uno sbrocco che in realtà era sempre un'uscita in superficie del senso peggiore, del disprezzo per l'umanità che gloriosamente corona i nostri ascoltatori. Evidentemente è il riflesso di quello che siamo noi. In questo caso questo sbroccamento cosa era, Giuseppe? Uno sbrocco storico, questo ci eravamo tanto amati di Ettore Scola, lo sbrocco fra il proletario Manfredi, ha fatto la resistenza insieme a Sattaflores che invece è l'intellettuale, e si rinfacciano il fallimento di un'Italia che negli anni 70 non ha rispettato nulla dei valori della resistenza e quindi vedono eclissare un paese. Nel frattempo c'è Gassman che rimane sullo sfondo, che in realtà dovrebbe essere il vero bersaglio della loro rabbia, perché Gassman è quello che ha tradito più di tutti. Loro pensano che sia un semplice posteggiatore perché l'hanno visto in mezzo al traffico, l'ha visto Manfredi, invece lui è quello che si è arricchito grazie, diventando un avvocato corrotto dei grandi palazzinari, del Cerbero palazzinaro Aldo Fabrizi, che appunto invece grazie alla cementificazione di Roma ha fatto molti soldi. Quindi c'è uno sbrocco che è un bilancio di un paese che ha trovato, insomma, il suo abisso negli anni 70. È interessante un altro elemento, un altro sintomo, visto che stiamo analizzando lo sbrocco nelle sue varie possibilità di espressione, è quello di essere un microcosmo di sentimenti repressi. In ogni sbrocco in realtà è racchiuso un universo. in questo caso l'universo di un sogno, di un'utopia non realizzata, e il rimorso per non essere stato come gli altri, non essere stato alle regole. Nei precedenti sbrocchi che abbiamo analizzato la stessa cosa, le velleità artistiche e creative di un frustrato, ma ancora di più il desiderio frustrato di emancipazione irreversibile del proprio status e via dicendo. Sentiamo qualche ascoltatore, visto che abbiamo numerosi sbrocchi da analizzare. Sarò più breve, ma i primi due esempi mi hanno talmente illuminato d'immenso, non potrò fare a meno di dare loro spazio. Anna Rosa. Buongiorno Nicoletti, e innanzitutto grazie per allietare la prima parte della mia giornata. Stamattina lei mi ha accolta nel punto, nel senso che... Vorrei sentirmelo dire, guardi, molte volte al giorno. Nel senso che io sono una persona estremamente, ho 63 anni, estremamente disponibile nei confronti degli altri, forse troppo, ma credo sia arrivato un momento che... Non ci si dà mai troppo, cara Anna Rosa. Purtroppo quando sa da fa, io sono napoletana, sa da fa. Vabbè, avrà dato. Dunque, ho avuto, diciamo, un paio di sbrocchi importanti. Quello che mi preoccupa, non da chiamare la polizia, assolutamente, non fa parte del mio corredo, però sono poi, diciamo, questi sbrocchi si sono conclusi con l'allontanamento delle persone. Vuoi che si trattasse di un'amica che tentava di salire in cattedra e darmi lezioni in un ambito in cui proprio non era necessario, vuoi che si trattava anche una persona di famiglia che probabilmente... Per... Ecco, però non entriamo nella circostanza, esatto, storica, analizziamo... Diciamo l'ultimo episodio, io voglio raccontarle l'ultimo episodio che mi ha fatto chiamarla. Io non lo faccio mai, solitamente è la prima volta che partecipo ad una... Sì, vabbè, dite sempre tutte così. Comunque andiamo avanti, no, vada allo sbocco. Non fa parte il mio costume. Comunque, sì, ma non deve giustificarsi. L'ultimo episodio praticamente risale a una decina di giorni fa, quando vado ad assistere alla proiezione di un film. Io ho un figlio giovane, diciamo sceneggiatore, si è inaugurato al cinema da una decina di anni fa, e purtroppo continua a subire diciamo lo strapotere dei registi. Ma forse non ha talento, potrebbe essere anche questo. Non è così. Nel senso per lei mamma, chiaro, ma può essere che non valga nulla e quindi giustamente viene messo da parte. Non lo so. Ma non è che viene messo da parte, lui realizza il film. Io sto cercando di passarle un altro messaggio. Nel momento in cui la sua sceneggiatura va in porto, il suo nome rimane tra i titoli di coda, al momento della presentazione del film lui sparisce completamente, poiché diciamo l'ultimo lungometraggio che è in concorso ad un festival ovviamente ha visto nuovamente ripetersi questa scena, cioè classica presentazione dei registi, i quali si appropriano completamente di questo lavoro, ringraziano gli operatori in sala, gli attori. Tra le altre cose, questo film deriva da un cortometraggio unicamente scritto da mio figlio, di cui ovviamente nessuno gli riconosce il suo merito di sceneggiatore. Assolutamente, questo. Lui ovviamente non partecipa perché sa già come vanno a fine queste cose. Io ero lì al centro della sala e francamente nel momento in cui mi sembrava che venisse addirittura ringraziato Trucco e Parrucco e tutti quelli che avevano lavorato a sto film, premesso che questo film ha un travaglio che non vengo qui si è alzata dal pubblico come Medea e ha detto a quel punto: sono la mamma dello sceneggiatore. Non proprio così. Beh, così gli ha rovinato la carriera per tutta... Suo figlio non avrà mai più il coraggio di presentarsi in pubblico. No, non è stato così, ma mi sono solamente sentita in dovere di sottolineare che si era mancato un ringraziamento. Mi faccio un esempio, scusa, se no non riesco a capire. Provi un attimo a simulare qual è stato il suo grido di rabbia nei confronti del regista, del produttore che non ha citato suo figlio, perché non riesco a allucinare la scena. No, non è stato, innanzitutto non è stato un grido, perché non sono persona da grido. Allora lei si è alzata in piedi. E cosa ha detto? Di una sala gremitissima, ho detto: mi sembra strano che non venga menzionato uno degli autori principali di questo. Beh, dov'è lo sbrocco? Scusi, dov'è lo sbrocco in questo? Ma io non l'ho mai fatto. Non si è strappata le vesti, non ha rotto una sedia. No, assolutamente no, non fa parte. Vabbè, non è uno sbrocco, lei è una normale mamma che protesta. Giuseppe Sanzona, tu che sei regista. Ma mi interessava la reazione poi invece degli astanti a questo sbrocco. Interessante sentire come hanno replicato. Avranno trovato compassione per quel povero ragazzo. Perché la lapide sulla carriera dello sceneggiatore, effettivamente con questo sbrocco materno è distrutto. Passerà la storia come quello che la mamma lo va a difendere in pubblico. Cioè, no, io credo che non abbia dato il giusto senso. Non ero lì a difesa di mio figlio. Sì, ma l'ha distrutto suo figlio. Se no, suo figlio che era adulto, che la mamma si alza e prende le sue difese, è una cosa che non doveva fare. Lo ha ammazzato. Suo figlio cambierà mestiere, andrà a fare il ghostwriter di Pupo, non lo so, qualcosa del genere. No, ma guardi che io non intendevo difendere mio figlio. Sì, ma l'ho ucciso. Lei non intendeva, ma l'ho ucciso, signora. Questo ne prenda atto. No, lo ha distrutto. No, io intendevo solamente sottolineare, diciamo, l'estrema indelicatezza. Ma non deve farlo, una madre deve lasciare in pace i figli quando sono cresciuti. Lei ha messo il piede indelicatamente nella vita di suo figlio e l'ha distrutto. Colui che dovrebbe sbroccare pensa proprio suo figlio. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andato a prendere questa espressione? Dove l'ha andato a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Ecco Giuseppe, finalmente uno sbrocco vero, perché sennò... nell'eufemismo dell'esternazione dei propri sentimenti che c'è oggi, nessuno ha fatto un vero sbrocco finora. Non ho mai sentito una persona che ha detto quello che ho detto io, che abbiamo simulato questa mattina di fronte alla bottiglietta all'acqua minerale, che ti va via la voce, che la raucedine viene drammaticamente peggiorata dall'improperio che esce come una profluvie di indignazione nei confronti di una persona che inerme ti guarda. Qua Moretti veramente, finalmente sbrocca. Uno sbrocco viscerale per una dinamica intellettuale, cioè qui c'è Moretti in Palombella Rossa, intenuta dal Palanotista, che davanti ai cliché, alle idiosincrasie giornalistiche, agli anglismi casuali, insomma, forzati di questa intervista, reagisce con una virulenza fisica, barbarica, quasi l'urlo di Girotti alla fine del sì, teorema. No? Inconsapevole creatore di altri cliché. Certo, poi dopo è stato un cortocircuito, però all'epoca, secondo me, la situazione, questa dinamica comica funzionava, cioè effettivamente era una reazione, siamo alla fine degli anni Ottanta, ci stava anche, aveva un suo senso secondo me. Chiara, velocemente, con chi ha sbroccato, quando, in che maniera? Salve, buongiorno Nicoletti, io riprendo il tema dello sbrocco tra amiche di lunga data, dove ci sono frustrazioni depresse che appunto escono fuori magari per un non nulla. Mi renda felice almeno lei, simuli lo sbrocco, perché non ho sentito ancora sbroccare una persona. Non posso urlare, anche essendo napoletana, comunque vengo da una famiglia dove l'urlo, diciamo, era abbastanza consueto. Ma me lo faccia sentire, perché voglio sentire. Sì, lo faccia sentire, la prego. No, le posso dire però lo sbrocco che ho fatto con la no, mia non amica. No, me lo fa sentire o non me lo racconta, la seguo, decida lei. No, glielo faccio, glielo dico in napoletano, visto sì, che appunto... sbrocchi verso di me, se la prenda con me, mi riempiono di insulti via sms, lo faccio una volta una persona in diretta, voglio sentire uno sbrocco reale, in diretta. Allora le dico, mo potesse pure infilanare l'intervena e cavarmo sangue intervena a sto punto, cioè nel senso, questa persona mi aveva talmente esasperato. A me non ha nemmeno sfiorato, devo dire onestamente, non avendo capito nulla, forse perché non la vedo e non la vedo nell'orrore del suo essere Rinni sbroccante. Datevi da fare, migliorate. Vorrei sentire uno sbrocco prima di chiudere la trasmissione. Melog. La realtà condivisa. Avanti, signor Cizza Capo. Mi faccio una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi la parola paliatone? Perché lei lo sa, signor Cizza Capo? Se non lo sapessi, non sarei qui. Non vi avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor Chivista Capo, cosa significa pagliatone. Permette? Grazie. Prego. Quindi, lei non sa che cosa significa pagliatone? Non lo so, non esiste. Questo è finalmente uno sbrocco che... si esprime in un'attenzione tipo fisico. Cos'era la misteriosa parola? Qui c'è la contrapposizione fra il poteruccolo da sagrestia del compagnuccio della parrucchietta Sordi, che appunto questo personaggio radiofonico lo traspone al cinema, e si scontra con Totò, che è un archivista capo che ha bisogno della licenza elementare. Sordi gliela nega, e allora la reazione è la dimostrazione fisica di che cos'è un pagliatone, termine napoletano che indica questa esplosione, questo sbrocco, questa esplosione di violenza che lascerà Sordi senza denti, con la cartina geografica sfondata in testa, quindi un rovesciamento del potere. Matilde, buongiorno. Gianluca, do preparato, buongiorno, non pensavo di essere emozionata. Sì, non ce la meniamo tanto, andiamo allo sbrocco. Ok, allora, a 40 anni mi sono innamorata follemente del mio commercialista, ho lasciato mio marito e lui ha lasciato la moglie, abbiamo incominciato a vivere insieme. Promesse di matrimonio mai avvenute. Dopo 10 anni, lei, la madre dei miei figli, in Sardegna non possiamo andare perché c'è lei, ci vuole il passaporto, eccetera, eccetera. Io sempre più esasperata perché siamo partiti con una promessa che non è mai stata mantenuta. Vabbè, ma Matilde, ma chi gliel'ha fatto fare di andarsi a mettere col commercialista? Ha ragione, Gianluca. Poteva caro. Felicemente trombarselo ad ogni chiusura di partita IVA e lasciar perdere questa noiosa ripetizione del rapporto matrimoniale. Però insomma io volevo che lui mantenesse la promessa. A un certo punto pensi che pretese? Che pretese? Ho cominciato a negarmi sul piano fisico. Poi, ma tanto lui avrà già trovato un'alternativa, immagino, nel frattempo. Beh sì, adesso ha una splendida ventenne, lui settantenne, splendida ventenne brasiliana. Certo. Ecco, allora cosa succede? Un giorno, una sera usciamo. Secondo lei sta meglio lui o sta meglio lei? Sta meglio lui. No, non mi interessa. No, sicuro. Ma continuiamo a avere dei rapporti d'amicizia, perché forse l'amore è stato profondo, per cui continuiamo a vedere. Per continuare a amministrare i suoi beni, per questo. Sì, bravo. Ragazzo intelligente. Non si butta via, non si butta via un cliente, scusa. Allora, solo insomma, perché non lo si tromba più. Una sera mi porta a mangiare in un ristorante famoso milanese e io, che sono abbastanza mite e sopporto, quella sera ho detto basta, adesso qui prendi una decisione. La situazione è degenerata, io avevo preso una forchetta e gliel'ho piantata nella mano. Dopodiché mi sono alzata, me ne sono andata, lui mi ha seguito fuori, c'è stata... E l'ha detto ancora, ti prego? Come? Cioè ha chiesto di continuare a trafiggerlo con la forchetta? No, lui mi ha levato una scarpa, io sono ritornata a casa con una scarpa sì, una scarpa no. E che se ne faceva della sua scarpa, scusa? E lui me l'ha buttata via, l'ha tenuta, non me l'ha voluta più dare, eccetera. Ma perché vuole essere calpestato con il tacco? Lei conosce poco della psicologia di questi signori un po' anziani. Giuseppe Sanzone. Ma lo sapete se la forchetta è affondata nella carne? Lui aveva, ecco, la forchetta ancora infilata nella mano oppure se l'era tolta? No, l'aveva tolta. L'aveva estratta. Purtroppo non gli ho fatto troppo male. Vabbè, comunque, vede, si è presa una bella soddisfazione alla fine. È finito anche bene, diciamo, questo rapporto che non aveva ragione nemmeno di iniziare. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Mancava mica tanto, che sbroccasse, che sono sotto la pioggia, lei non mi fa parlare mezz'ora che sono qua. Sbrocchi, sto qui a ascoltare. Però non è una provocazione sufficiente, probabilmente. Vuole restarci un altro po'? Ho altri 3 minuti, posso lasciare? Dovrebbe un po' buzzecchiarmi e dovrebbe, poi dopo magari... No. Ascolti, no, semplicemente io l'ultima sboccata che ho fatto di un certo impegno, di una certa... Valenza è stata nell'ottobre scorso. Io con mia moglie andiamo con degli amici, una coppia di altri amici, a fare i viaggi toccate fuga nelle capitali europee, e l'ultima è stata, questa qui di ottobre, è stata in Portogallo. Siamo arrivati in aeroporto di Porto, e per andare poi abbiamo preso una macchina a noleggio, siamo andati a Lisbona. È stato 2 giorni a Porto e 2 giorni a Lisbona, nel tornare indietro, poi sempre con l'auto per vedere la costa atlantica e cose del genere. Era partita già male, nel senso che l'amico era arrivato in ritardo al mattino, quasi perdiamo l'aereo, poi ho cercato di drammatizzare, poi così. Vada allo sbrocco, lasci perdere le cause, che sono già sin troppo comprensibili, una triste, squallida vacanza in quattro, no, chiaro che... Allora, GPS, perché poi chiaramente uno va in Portogallo, non mica sa le strade, da Lisbona, nel tornare indietro, diciamo, passiamo da Capo La Roccia, che è il punto più estremo del continente europeo. Perché ha sbloccato? Perché dunque là i segnali sono diversi da qua, per esempio là sono segnati via, ecco, e lui era in parte, ma avendo io pagato tutto con la carta di credito, guidavo io e continuava, vai di qui, vai di là, e il navigatore lo so, stava sotto la pioggia, ci stanno altro po'. Il dono della sintesi è indispensabile alla radio, se no altrimenti siamo costretti a sbroccare. Sì, amore, dove state andando voi? Andiamo a goderci gli ultimi attimi di pace, il mondo sta per finire, uomo. Però la sera, uomo, vieni sempre a casa mia a sbafacchiare e a mangiare. 3 bistecche alla volta ti fotti, uomo. Papà, perché me le tracci così? Perché? Perché mi scatti i panni? Perché... Non fare così, e se gli viene un trauma? Ma che me ne frega del trauma, uomo? Fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Lascialo perdere, vieni. era il migliore dei Banfi, però vedi, alla fine, Giuseppe, lo sbroccamento simulato, rappresentato, ci dà l'idea di cosa sia. Lo sbroccamento raccontato sfocia in tutto un altro argomento. Ci siamo divertiti della crudeltà delle vicende degli ascoltatori, non abbiamo avuto nessun sentore del loro sbroccare. Sì, poi qui c'è Banfi che fa l'ur pugliese, che sbrocca con la figlia Gegia che si porta in casa, questo uomo che divora tutti i pasti, quindi insomma rimane come una sorta di parassita. Sì, ma lui sbrocca veramente. Io questa mattina non ho sentito nessuno raccontarmi realmente uno sbrocco, soltanto vicende collaterali. Va bene, grazie professor Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie Giuseppe Sansonna.